pasta al forno è pronta! È pronta la pasta al forno! Andiamo, vai, andiamo, Bobo! Attento, Marino! Andiamo, vai, andiamo! E Bobo, non lo so io. Oggi gamberoni arrosto e fettine di coso, di cammello impanato. Io a pranzo ho gobba di cammello, fettine e cornicione sa zattino. Buon aneddo, e chiamavo Crebbia. È vero, è vero. Ehi, è vero, Bobo, andiamo bene, andiamo. Beh, dai, scendi sta pasta al forno, mio, yeah. Ma è pesante la pasta al forno, anch'io la mangio, ma è un bel pesante, boh. Io preferisco un bel piatto di cigione agli olio, guarda, bello piccante, andiamo bene. Andiamo bene, andiamo. Sì, sì. Bobo. Andiamo bene, sì, andiamo, Bobo. A riposo, vai oggi, ho lavorato, hai. A riposo, ciao, Luca. Lavorato. Beh, Gio Maria, non te ne vai a mangiare, no? Meglio una ciappinuta a voi, mi. Eventualmente mi fanno fare un giro di tavolo e sto andando. Andiamo, vai, andiamo, Gio Maria, Bobo. Sarà tutto, esce, si sa mai che posso venire tu, io mi lascio sopra, esce. Io non ci vuole fare il giro di tavolo, lui. Ciao, ciao, buona carica a tutti, ciao. Ok. No, sto mangiando la pasta al forno, Lu. Sì, me la sono cucinato, Gio Maria. Dopo tanto tempo, la pasta al forno, no. va bene. Sto facendo cosa, vi ho sentito, sono entrato là. Buon presidente, buon pranzo, Lu, ci sentiamo. Ciao, saluta in casa. Ciao Maria, anche a te, ci sentiamo. E oggi ho fatto, Gio Maria. Cucù, va, ciuca grossa, un ti piazzate con un battato, un sugo. Poi l'umaccone in verde e pasta al forno. E poi, com'è dolce la torta? Ciao, buon pranzo. Niente. Non ti stai lamentando, bene o male. Niente, va bene. Mangia poco, se ingrassi troppo ti crescerà la banza di bufalo come se qualcuno mi... Babbo, ciao, saluta in casa, ciao. E a contraccambio, Gio Mari, ciao, che a te buon pranzo, ciao. Luca, banza di bufalo. No. Audio. Eia. No. Audio. Eia. Chi è? Sto facendo roba. Eia, fai, non mi interessa, ci sentiamo dopo. Eia, chi è? Manuè, tu sì. Manuè, cazzo, se non attacchi l'antenna grande, io non ti sento, ok? Luca, Gargamella. Vai. Luca, Soffiantini. Adesso mi senti, Cla? Claudio, se mi senti, fatti sentire anche tu. Danilo? Mi senti? Eia che ti sento. Mi senti, Dani? Danilo? Non sento Danilo io. Adesso mi senti? Attento Danilo. Adesso mi senti? Sì, adesso sì. Il connettore era. No, arrivi benissimo, alla grande. Questa qua è l'antenna esterna, quella grande. Anche questa è l'antenna esterna. Mi senti bene a me? Sì, ti sento bene, anche bello di radio e di segnale. Vabbè, di radio sto usando un microfono da tavolo. Vedi, io invece sto usando il portatile. Se vuoi collego anche l'altra radio, però con l'altra radio che mi ha dato Luca è un macello, perché non esce di VAT. E allora lascia stare, tanto per fare due chiacchiere già va bene anche così. No, con questa qua già mi diverto, lo stesso. E beh, poi chi ci sei? Tu, Tutti qua siamo, io, Luca Del Monte, Luca Flipper, tutti qua siamo. Flipper, lo senti a Danilo? Oh, Danilo, mi senti? Danilo, ti ha chiamato Luca, lo senti? No, Luca non lo sento. Non l'ho sentito adesso. Sono vari è via Sant'Orso da lui? Ah, io ascolto a tutti qua. Sarà lui che aveva problema, non lo so. È un 40.000 in gomma. No, 40 in esterna. 40 in esterna, eh. Cosa vuol dire che non arrivi? Tu mi senti qua. Tutti mi sentono. Eia, ti sento benissimo io. E Flipper dov'è? Flipper! Eia, ero al telefono. Debbe? Guarda, si senti a Danilo. Luca, tu mi senti a me? Eia, a voglia. Arrivi a... tranne che a Luca del Monte non arrivi. Boh, ma lui dove c'è da tua madre? Considera che Danilo è in una valle. Poi ci sono io, alto, e poi Luca è in una valle lo stesso rispetto. Capito che secondo me è per quello. Sicuramente. Poi io ci sono, io sono dentro un buco. Sì, di Luca. A 45 metri che è dentro un buco. No, lo vedo, Sant'Orso da qua, io quindi non ho problemi. No, è come la volta scorsa che ti stavo dicendo, magari noi non ci vediamo, però le punte delle antenne si vedono, anche senza le punte, le antenne si vedono, sicuramente, e riusciamo a agganciarci bene per quello. Cos'è, Danilo, a 200? Beh dai, passiamo al canale 20, io facciamo due chiacchiere, lasciamo il monitor questa però, Lu, lasciala accesa. Aspetta che provo a mettere l'altra antenna, quella più piccola. Prova, prova, dai, passiamo al 20. Luca. Oia, eia. Ma non mi senti, Dani? Claudio Cacamella, Luca Canemossa. Eccomi qua, con questo sono tranquillo, capito? Ah, così è. Andiamo, andiamo. Allora, cosa ci vuoi fare sto? La questione è andata così e così. Vedi che ci, magari ogni tanto la tuta e da voi mi fermo, capito? Ma io non che è tutta questa cosa là. Qua sono tranquillo e posso chiacchierare quanto voglio. Ciao Mari! Mia, Romene, mia, che d'altro? Ciao Mari! Ah, la prossima... Ma mi sentite? Ma andate con i vostri tiri e c'è via. Oh, ma mi sentite o no? Sì che ti ho sentito io, è chiaro che non ti intendi. Ciao Maria, tu mi senti? Beh, ti sto rispondendo, ti sento. Ah, meglio così, dai, anche io vi ascolto forte e chiasso. Oh, segnali non li hai, però la radio è buona. Come non lo segnali? Si affondo scala qua. Io non ti sento, non le vedo segnale da te. Oh, che strano, tu da te, tu ne vedi segnale? No, perché c'ho il portatile. Tu ci vuoi il portatile? Oh, c'ho qualche mino io a parte dietro, Ah, coco mio sì. E allora, per quello è. È strano che tu mi arrivi a fondo scala e a me non mi dai segnale. Boh, ma è strana la cosa, mi pare. Sei a fondo scala qua, vabbè, io non ne vedo segnale tu. La radio è 5, ma segnale non le vedo, forse perché c'ho l'antennino, capito? Ho capito, va bene. Andava, riprendi to. Sì. Andemmo beh, andemmo. No, noi abbiamo sempre re, ma è male, ce l'ha giudicato. Abbiamo il messaggio, vendi a Bacchisio, boh. Bacchisio è... a che sola è posato in poltrona? Gatta, fare un riposino, gatta. O se mi vendono un caffè o i merendendi. E cosa ne so, boh. Guarda che sopra non l'ho piazzato. Deve assegnarsi, deve essere tranquillo, va ospiti e non può parlare, capito? Marino, senz'altro, giochetti con ributi, vedi un po'. Sì, vabbè, facciamo così, facciamo. E non ci siamo noi. Adesso siamo in tre, vedo un po'. Avanti lui, ma Luca va un morso in bocca. Tragitto, fuori con sempre si avvia. Vedo un po', cazzo, la questione, cazzo. La questione è un po' così, la questa voce. Uia, andiamo. Beh. Attento, c'è lo macchisito. Senza fare, ha detto no, che non ha gara oggi. Sì, vabbè. Già andiamo per così. Io mi sono che a cucinare, devo dare il giornale. e fa vedere. E via, sto guardando a Gerry Scotti. Che c'è? E chiacchierando qua, e cosa vuoi fare? Anzio, cosa vuoi fare? Ah, manca Massimo Lula. Andiamo e anda. E cosa vuoi fare? Anzio, andiamo sempre lui. Luca! Chissà, sto impegnato, Oh, yeah. Poi intanto con il sicchirio. E dopo si ritira. E lo sai che è così. Ah, magari saranno rubinti. Ah, vabbè. E andiamo a fare così, da re. Oh, non niente, Oh, adesso, guarda, ma niente, forse paese che non riporta. Capito? Oh, già ma con qua ci sono, boh, cazzo metti in bassarula. Metto la manco di nabizzi. Cazzo, ma boh. E di prima ero il computer. Ma ci ho fatto una baizzata al computer, la bassa all'assara. Da voi la circolata, il talasso è dormire chiuso, me. E so cos'è per cui senti, ma non vedo nessuno che la metta a grande sentato giù. Così, entra! Vai attaccando lo computer con una catturetta, che è un brubende. Ah, funziona avessi. E cosa? La scatoletta che avevo ordinato e mi è arrivata. Io stavo provando. Con il coso con tutte e due frequenze e entravessi. Ah, il computer? Sì, nel computer. Beh, dovrebbe usare bene, cazzo, si è fatta apposta per quello. Infatti si sente anche bene. Prima non riesci a ciappare l'audio, ma dopo di tanto si riesce a ciapparlo. Vedo un po'. A me mi ha fatto la spesa utile, capito? No, io non è che lo sto masticare tanto il computer, capito? Magari a mangiare cose così, già verdeci, ma poi a fare cose io, cazzo, cacchi do un dratto così, ho già voce di babba, capito? E per cui non è che riesco a fare magari come fate voi, capito? Se te lo faccio vedere, c'è un programma che... Come entri, le cose ascolti. Fammelo vedere a che dia, vedo un poco. Faccio vedere dove entrare e poi ti cerchi le frequenze che vuoi. Dico cosa devi schiacciare. Bisogna installarlo così. No, ce n'è bisogno di installarlo. Io ti lascio il coso scritto. Entri lì e lo trovi subito. E si apre, come si apre ti dà una frequenza, la frequenza della 27 ti dà, oppure la cosa, frequenza UHF ti dà, o i 40, 50 metri, 60, 70, 80. Ma non che mi appetta assai io, hai queste cose, no, che vi tenga io, no. Oh no, ma a me mi basta solo, lui certe volte magari, cara, vai da così, cacchi cosa, capito? Ma per un resto a voi, ma non baracchine, e le frequenze gliela c'ha piroghi, cazzo, è virato disponibile tu, bisogna accendere il computer per fare queste cose, capito? Ma lo capito, non riesce a masticarlo bene, capito? Perché lo uso poco io. Per quello è. No, io entro parecchie volte, ci sono quasi parecchie volte. E so dove entrare adesso. Vai a vedere, accendo magari 10 minuti. Dopo se mi stancano gli occhi e devo chiudere per forza, o mi distacco, dopo riprovo, e così via, ma non è che ci sto molto, capito? E a momenti magari ho mezz'ora così, dopo mi distacco, faccio altra cosa e poi ritorno, capito? però non è che sia proprio uno di quelli che ci tiene a fare questo, a fare cazzo, quando è per me no, la mamma, solo chi se ne vuole mattarmi lungo la butto. andiamo, vabbè, ogni tanto un 10 minuti te l'ascolti, e cosa, da voi, lo chiudi? Bah, oh ya, yeah. Non è che, così mi certe volte, la certo l'altro, ma fai pagarmi una mezz'oretta, non di più, capito? Però non è che faccio tante cose, capito? Ah beh, da così, sui bei, sui ammazzoli, e roba del genere, capito? Ma beh, dammi! E no, non per altro, che no. Oh, grazie a te. Non è per me, no. Non è per me, tu magari sei più giovane, per cui tu maneggi me. Oh, cazzo. Abbassate, se faccio un cambio buglione, poi mangiate, mi attaccano con pizza, guai. Vabbè, a ascoltarlo per 10 minuti, un quarto d'ora, no, non fa nulla. Ascolti e boh, degli attori e cose. Un sacco di anche sulla 27. Mi sa come ci mi sa a calovare a chi, la stessa cosa, capito? Magari ho che ci sono dei minuti a voi paro, dove è più cara, devo andare, purtroppo sì. Prima magari era diverso, ma ori, cazzo, non finale mai, cazzo. Però va, è che una gara più, mi sarà così subito, capito? Larga i giovani, larga i giovani, loro magari si appentano di più, io stavo a peso diversamente, io, cazzo. Ma quello sì, che così già andare, vabbè. Ok. Va bene, tu dai, è meno dirci, sono io chiudo, dai, ci sentiamo domani, tu. Buon proseguimento, se entra Bacchiso me lo saluti. E ci sentiamo domani, saluto di casa, tu. Grazie, carattere, anche se è breve, fa piacere sempre, dai. Ok, tu. Ok, Giomari, ci risentiamo. Ok, ciao, chiudo. Ciao, Giomari. Sì. Ora non mi ascolti, buonasera. Ciao signor Bacchi. Buonasera anche a lì. Catta, ben entrato dopo di tanto. Un casino di splatter. Ciao Bacchi. Ebbene, sono i miei, non me ne sono toccati niente, Luca, tutto a tole. Ah, già mi senti allora? Non ti sento, io sento a tutti. Ah, mezzugai, andava bene, mezzugai. Tore che non mi sente, che è sordo. Ha ragione, gatta, se dai un zembo e t'avvi, ti hai un grido. Ma brutto, vai casera. Questa sera siamo al massimo. No, Tore, non è che stavo mangiando. Mi ha da te. Andemmo, dai. Gioca, oggi gioca. Che... Sal Bacchi, se esci da me, dai. A chi vuoi con la terra, il tuo arachino? Cosa? Non riesce a schicciare il tastino? Secondo voi incalchi il tastino e si mette il torso e forse ve ne poca. Aia. Non ce l'hai per attaccare il coso grande? Il microfono grande? Sì, bisogna attaccare il suono così che è sempre attaccato. Questo è alla portata di mano. Andemmo. Dai. Io mi ho attaccato il coso, il portatile anche. M'attacco. No, hai fatto anche questo. Sì, con il portatile molte volte ad operarlo. Io stasera sono andato a fare le spese. Alla lì non c'era un bel attrezzo, Tom. Meraviglioso. Ci andate e l'ho comprato. Cosa? Non ho capito, signor Bacchi. Alla lì non c'è. Quel coso, quell'attrezzo con la lente e le due pinzette, però questa volta è illuminato. Ma dove? La Lido? Ma cosa c'è? La lampada grande? ci sono due LED dentro la lente. Ah, quello con l'attrezzo, quello ce l'ho io. Per saldare, perché c'è le pinzette. Ce l'ho quello lì io, con la lucetta. Con la luce? Sì, con la luce, direttamente. Sì, è comodissimo, ho visto che è molto comodo. Sì, ce l'ho quello bacchio. Sì? Che ce l'ho quell'attrezzo lì, con le pinzette e la lente che si illumina. Sì, è quello lì, quello con le pinzette. Cioè, me ne libera almeno. Sì, fino a ieri lo stavo adoperando. No, io sto cercando quello con la lampada, con il coso grande che si attacca al coso, si attacca direttamente. Quello 220? Sì, quello 220. Finite, non ce ne siamo più to. Sì, ma questa druppa gusta in internet. Lì l'avevo vista, quando l'ho presa mia figlia l'avevo pagata 19,50. Oh, 30 che cosa? Sì, 35 euro gusta. Più le spese di spedizione. Vabbè dai, signor Bacchi, ci risentiamo domani, immediatamente, miei mogliri, ci risentiamo domani, se va tutto bene. Ok, ciao signor Bacchi, saluta Malluca, si entra. Ci risentiamo, ciao signor Bacchi. Ehi, anch'io seguo la tua canzone perché sono le 8 e arrivi da l'ora. Ciao Tore, buona serata, saluta la signora, domani se coincide ce la chiacchieriamo ancora. Saluto anche a Luca, se all'ascolto. Ciao Luca, buona serata, a domani, scusa se ti vado, però devo prendere medicine. È arrivata l'ora. Ciao anche agli ascoltoni, Bacchi 5RD. Ciao signor Bacchi. A domani, ciao. Buonanotte.